Sono andato a lavoro Sono lunedì. andato a lavoro. Lunedì. Sono andato a lavoro. Un call center. Un call center. Ho preso l'ascensore. Schiacciato 13. Tutto normale. No, no. C'era una puzza enorme, no, enorme. Fortissima. Enorme. C'era una puzza incredibile. Stranissima. Quella puzza che ho sentito in campagna. Giovanni, quando ho trovato un gatto morto. Da molti giorni. Da molti giorni. Ecco quella puzza lì. Cammina in mezzo alla sala. Cammina in mezzo alla sala. Cammina in mezzo alla sala, in mezzo ai colleghi. Era sempre più forte. Sempre più forte. Sempre più forte. Sempre più forte il volume delle voci. Sempre più forte. Sempre più forte il volume delle voci. Sempre più forte la puzza. Sempre più forte la forza. Sempre più forte il volume delle voci. Sempre più forte la puzza. Era tutto normale tranne quella puzza. Con la coda dell'occhio vedo una presenza strana. Mi giro. E tra Marta e Gianvito. Chi ti vedo? C'era seduto Antonio Gramsci. Antonio. Ciao. Cosa ci fai qua? Ah, guarda, lascia perdere. 2 anni che mando curriculum da tutte le parti, non mi ha preso nessuno. Neanche a Lupin. Neanche a Lupin. E ti capisco. Antonio, ma cos'è questa puzza? Sono l'oro. I nostri colleghi? Sì. Perché? Sono morti. Morti? Sono morti. Ma se stanno parlando? Appunto. E vivi, Antonio? C'è qualcuno vivo? È rimasto qualcuno vivo? Qualche superstite? Certo. Sono andate a fare l'aperitivo. E il sindacato? Antonio, il sindacato cosa dice? Ma lascia perdere. Ma non fanno niente. Ma non fanno niente, non dicono nulla. Sì, sono sui tavoli, stanno offrendo da bere a tutti. No. Eh già. E compagni, Antonio, i nostri compagni. Sì, i nostri compagni, Antonio, i compagni. Compagni. Guarda, lascia perdere. Li hanno ricoverati tutti. Ricoverati. Sì. Tutti, come etilico. Primo maggio 2021. Questa è Radio Plaza. Questo è Radio Plaza e oggi è il primo maggio. E questa è una nuova puntata di Radio Plaza che sarà spettacolare, visto che addirittura oltre a una sigla abbiamo anche una pre-sigla. Puntata spettacolare di Radio Plaza, come tutte le puntate di Radio Plaza. Sì, abbiamo avuto una pre-sigla e una sigla. La sigla era questa qua, Denaro dei Train to Roots, che è un singolo uscito nel 2019 e di questo gruppo che è mezzo sardo, mezzo italiano. La presigla invece l'abbiamo sentita, era Superstiti di Io sono un cane, dall'album della Macarena su Roma del 2010. La Macarena su Roma del 2010. Questa è Radio Plaza, abbiamo detto, oggi è primo maggio. Cos'è Radio Plaza? Radio Plaza è la radio extemporanea che, come diciamo sempre, impazza spesso nella piazza, oggi virulenta e imbavagliata, e che quindi in questo momento si spiazza, strombazza e scorazza sulla rete in cerca di guai e orecchie che intendano. In presa diretta dai nostri sgangherati microfoni, le voci sono di Pam e Jim, alla regia c'è Meg, Tom è alla produzione e Beth è la curatrice del programma. Buon primo maggio a tutte! Quanta bella gente tutta insieme per questa nuovissima edizione di Occhio all'Ingranaggio, iniziativa socioculturale del collettivo Utopia, che a Marigliano ormai da anni ha riproposto la festa dei lavoratori a Stazione Utopia, luogo simbolo della rigenerazione urbana, autonoma e collettiva di un posto abbandonato, con una serie incredibile di appuntamenti con il teatro, la danza, la street art, i concerti, svariati partecipanti e tantissimi ospiti. Stupefacente Occhio all'Ingranaggio. Radio Plaza, trovate tutto questo su collettivoutopia.noblogs.org, notizie, comunicati, foto, reportage e le puntate di Radio Plaza che hanno accompagnato l'entusiasmante avventura di Stazione Utopia. E allora buon primo maggio e occhio all'ingranaggio. Ricordiamo, la macchina spinge, la senti ovunque, spietata, avanza, arrogante, sfrutta e schiaccia, pesante, intollerante. L'esistenza, ma è di fatto fatta di ingranaggi, trasmissione e collegamenti, interconnessioni e, occhio, interdipendenti. Occhio all'ingranaggio. Primo maggio, occhio all'ingranaggio, per chi frena la macchina. Cosa? Fermare la macchina? Ma chi? Come? Quando? Dove? Perché? Aprite bene le orecchie, perché oggi ne sentiremo tante, importanti, interessanti, intelligenti, irriverenti, illuminanti. Oggi è il primo maggio, compagne e compagni in ascolto. Il primo maggio, la lotta, la festa, il corteo, i concerti, la libertà. Radio Plaza! E Radio Plaza, le riflessioni, i dubbi, le ingiustizie e le menzogne. Primo maggio, occhio all'ingranaggio. Non solo informazioni, ma soprattutto forti vibrazioni qui su Radio Plaza. C'è tanto da fare e poco da dire. La situazione è difficile, ma è chiara e palese. Occhio all'ingranaggio e aprite dunque le orecchie. Oggi parleranno i brani, i contenuti sono tutti lì. Proteste, proposte, desideri, domande e risposte. Ma quale ingranaggio? Oltre a quello che abbiamo già detto, quest'anno occhio all'ingranaggio, quello del tempo che stritola, ci assale, o forse ci facciamo assalire. E così, per non perdere tempo, perché pensiamo di non averne, ci perdiamo tutto. Stiamo per ascoltare il brano che è stato di ispirazione per questa nuova puntata di primo maggio, occhio all'ingranaggio 2021, una puntata ancora ricca di contenuti. Abbiamo detto che saranno i brani a parlare per noi e questo brano ci accompagnerà per tutta la puntata nei suoi contenuti, e quindi vi proponiamo Siamo come siamo, dall'album Tra l'aratro e la radio del 2008. Ascoltate bene, questa è la voce di Max Cazzè e questa è Radio Plaza. Ci costringe a fare misurazioni di calendari, pendoli e cronometri. C'è chi lo sfida, chi lo tende. alimentare, infatti come è noto il dente è perdente, un occhio per un occhio è sempre un occhio, solamente la frenesia di cogliere ogni particolare, insistere e scoprire il più minuto dettaglio diventa pornografia che restringe la. Se non è bello quel che è bello perché sembra bello, allora esisto perché sono vivo perché l'ho deciso adesso. Vorrei vivere più spesso. Hanno tutti un amico che fa prezzi migliori, giudici tecnici, politici e dottori, chi disprezza e chi compra, chi apprezza non conta, e conta solo chi ha un prezzo. Radio Plaza. Siamo pronti? Ci siamo? Ci siamo. Sento anche l'eco addirittura del microfono. Quindi ne siamo di più. L'eco siamo diventati di più. L'eco del tempo che arriva. Questa è Radio Plaza, quindi qualunque cosa succeda. Succede qui, ora, in questo momento. Cioè, una volta mi fecero una domanda: ma cos'è Radio Plaza? Questa è Radio Plaza. Questa è proprio questa Radio Plaza. E che stiamo a fare oggi qui? Oggi stiamo a parlare di tempo, quindi abbiamo ascoltato questo brano di Max Gazzè, Siamo come siamo, e passiamo quindi a questo primo blocco. Mi abbiamo colto un po' distratti, dai, andiamo avanti. Siamo distratti, lo saremo per sempre. Infatti il più antico strumento di misura del tempo inventato dall'uomo è probabilmente lo gnomone, perché a un certo punto noi abbiamo deciso di misurare il tempo che trascorre. Ebbene, lo gnomone inventato dai Sumeri, introdotto in Europa da Anassimandro nel 600 avanti Cristo, non è altro che un bastone che proietta sul suolo l'ombra del sole. Oggi invece, quindi attualità, diciamo così, l'orologio più preciso è quello al cesio, inventato dal professor Louis Essen nel 55, e su questo orologio è basata l'attuale definizione del secondo. Ma cosa misura veramente il nostro orologio? Ormai è ampiamente dimostrato che il tempo non si misura, e allora il tempo non esiste. Ciò che esiste sono solo atomi di spazio. L'universo e la sua storia non sono altro che modi in cui si dispongono questi atomi di spazio. Sì. over, thought I'd something more to say. Radio Plaza. Ci siamo di nuovo e abbiamo ascoltato Time dei Pink Floyd, in questo momento uno dei pezzi storici di questo gruppo, eterno direi. No, nel brano dei Pink Floyd che abbiamo appena ascoltato, tratto dall'album The Dark Side of the Moon del 1973, si racconta che da giovani si ha tempo da poter spendere e sprecare, perché la vita ci appare ancora lunga e duratura. Quando poi ci accorgiamo dei tanti anni ormai trascorsi e che la nostra più che vita è stata una semplice e banale esistenza, allora si cerca di recuperare il tempo ormai perduto. Molto curioso il caratteristico ticchettio dell'orologio che sentiamo all'inizio del brano, poiché è stato realizzato sul basso elettrico di Roger Waters. Il rumore del plettro sul basso sulla corda del basso elettrico di Roger Waters è presente inoltre in questo brano, uno degli assoli abbiamo ascoltato in questo momento, uno degli assoli più belli dell'intera discografia dei Pink Floyd, opera capolavoro di David Gilmour, potrei dire uno degli assoli più belli della storia della musica universale. Quanto tempo abbiamo ancora? Basta, non ne abbiamo più di tempo. Non c'è tempo? Non abbiamo più tempo, non c'è tempo, perché questo è il momento di lasciar parlare la musica. Radio oggi Plaza. Su Radio Plaza, questo primo maggio, occhio all'ingranaggio, non c'è tempo, perché è il momento di ascoltare questo, questo brano dei 99 Posse dall'album Cerco Tempo del 1996. È la prima volta che si aggiunge al gruppo la voce di Meg. Lasciamo parlare, non c'è tempo, dei 99 Posse. Oggi è primo maggio e questa è Radio Plaza. Buon ascolto. Nella notte vedo un mondo che non c'è, quello che mi sta intorno non è mio, non fa per me, il buio mi circonda, se mi avvolge mi ricorda di quando spegnevo la luce da sola, volevo tagliare la corda, trasformare sogni alle passioni nei triconi, è quello che ci mi ha chiesto, io non volevo sentire ragioni, ma la notte porta consiglio, neanche uno sbadiglio, questo è lo spiraglio che mi fa sentire meglio, forse solo un poco di malinconia, mentre guardo e poi mi cerco nella gigantografia, crisi di coscienza, forse di identità, eppure io mi riconosco proprio quella là, la mia giornata se ne va, ed io divisa tra l'entusiasmo ed una nuova paranoia, in quel mondo che sembra lontano è invece qua, attenzione, parlo della realtà, sento che non c'è tempo, e allora proprio che da farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia, toccarsi non si può, cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo, è presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottratto, almeno ci sto provando. Che invece cerco giovane che non può sbaglia, che invece cerco vecchio che vuole recupera, che invece cerco tossico che non si può fare, che invece cerco tempo e tempo non ce n'è stato, siete mamma, siete mamma, siete lo zulu, che magari una volta mamma tempo non c'è stato più, tu siete mamma, siete mamma, siete lo zulu, o curro tutto il tempo che vuoi tu. Era l'uomo così, la galla, la cartella, la scuola, la casa, le zone, l'ombrello, si chiama Cappella, ma Granatella, si chiama Tulille. Non bastava filmata e teneva una linea, se usciva la sera, ma faceva per ogni foto che c'era una croce nera, una storia vera, non si poteva, e tu ballilli in da televisione, ma scamazzava palla due a competizione, due gli anni ottanta, volere e potere, voleva e non poteva, ma faceva bene. Sento che non c'è tempo, e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia, toccarti non si può. Cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È il presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottraggo, almeno ci sto provando. Siete mamma, siete mamma, siete solo. Stavano tante cose allora che non ci stanno più. Stavano tante partite che non sono sparite, che manca di scienza che sono esistite. Tutto cagnato, peggio è passato, nuove arrivate. Tutto cagnato e tu stai ancora in da televisione. Che te parla faccia nuova, ma sei lo stesso imbruglione. Siccome mi sono rotto cazze, ma fa bene. Tempo non c'è sta che noi damma fatta sta canzone. Cerca tempo e non ce ne sta. Cerca tempo e non ce ne sta. Cerca tempo e non ce ne sta. No, no, cerca tempo e non ce ne sta. Sento che non c'è tempo, e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia, portarsi non si può. Contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottraggo, almeno ci sto provando. Cerca tempo e non ce ne sta. Cerca tempo e non ce ne sta. Cerca tempo e non ce ne sta. No, no, cerca tempo e non ce ne sta. Eccoci, Radio Plaza ritorna, primo maggio, occhio all'ingranaggio. Radio Plaza oggi ci parla di tante tante cose. Abbiamo appena ascoltato la voce di Meg dei 99 Posse che ci diceva: io apro gli occhi nella notte e vedo un mondo che non c'è. Quello che mi sta intorno non è mio, no, non fa per me. Perché questo sì è un mondo ancora troppo pieno di violenza, declinata in ogni forma. E non esiste nessuna vendetta equa. Non esiste un gesto violento inerte che sta fermo e non ritorna sotto forma di disastro. Oggi è primo maggio e noi con questa nuova puntata di Radio Plaza, oggi primo maggio, occhio all'ingranaggio, lo ricordiamo ancora, non ci sottraiamo e proviamo a raccontare il nostro no alla violenza con la musica. Che mi sussurra negli orecchi, anche se muori sterminali, non sono degni dei miei.

quando dovevi stare in coda o sedere nella sala d'attesa dal dentista. Per fortuna ora non succede più, perché le sale d'attesa e le code sono piene di post, foto, video. Insomma, i social ci hanno liberato dalla noia. Ma sarà vero? Cominciamo col dire che negli ultimi 20 anni la soglia di attenzione umana è calata a 8 secondi. Possiamo anche contarli e ci arriviamo a 8 secondi. Non è male. Meno di quella di un pesce rosso. Notifiche, infiniti scrollamenti, autoplay e app dal design attraente e dai colori brillanti hanno seriamente impattato la nostra capacità di concentrazione. E questo perché i social sono stati creati usando psicologia persuasiva per farci desiderare sempre di più. Si chiama attention economy. Le app competono l'una con l'altra per il tempo del consumatore. Sì, qualcuno addirittura ha detto che il competitor maggiore per le multinazionali è proprio il sonno, che toglie tempo al consumatore di continuare a consumare, spendere, acquistare e continuare a scrollare, diciamo così. Volendo essere positivo, però, i social media potrebbero averci fatto capire che c'è una forza nei numeri e che ora abbiamo la possibilità di connetterci con altri per poter portare cambiamento, e allora possiamo iniziare a riconnetterci con ciò che davvero vogliamo come liberi pensatori, invece che come consumatori dipendenti dai contenuti. E quindi ecco, questo è quello che un po' volevamo dire, ma come abbiamo detto per questa puntata preferiamo lasciar parlare i brani li abbiamo scelti per farli parlare, ed ora andiamo ad ascoltare una novità anche per Radio Plaza. È una novità, ascoltiamo Strome, che è un cantautore, produttore, discografico belga, originario lui del Ruanda da parte di padre e belga da parte di madre. La sua produzione musicale è caratterizzata da uno stile che accosta l'hip hop e il soul alla musica elettronica. Lo pseudonimo del cantautore belga deriva dalla parola maestro in gergo Verlan, e per Verlan si intende una particolare forma di linguaggio gergale usata in Francia e caratterizzata da parole nuove ottenute attraverso l'inversione delle sillabe. La stessa parola Verlan in codice significa l'envers, ossia al contrario. Che sfizio, ragazzi, il Verlan, vero? Fantastico. E nel suo primo album Cheese Stroma affronta temi quali l'amore non corrisposto, la violenza, l'estate, la fede. In Racine Carré, che quello è l'album del 2013 dal quale stiamo per ascoltare il brano, i temi più ricorrenti si fanno più impegnati, e nel brano Carmen, che ora andiamo ad ascoltare, si tratta il cantante tratta il tema della alienazione da social network. Primo maggio, occhio all'ingranaggio, questa è Radio Plaza e buon ascolto. Radio Plaza. Plaza. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on s'aime, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on s'aime, L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Prends garde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais l'échanger, moi. Prends garde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. sème, sème, sème, sème. Comme ça consomme, somme, somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Hey. La frenesia di cogliere ogni particolare, di insistere e scoprire il più minuto dettaglio diventa pornografia che restringe la visuale. La legge in un paese antico. In quello stato ci si crede poco, dove esplodono i valori nazionali soltanto in occasione dei mondiali, dove si avverte la coscienza vaga del vivi, del godi e del chi se ne frega, che è l'unico orgoglio del vero italiano, ma porta ogni volta a votare di meno. Ne hanno parlato alla Camera e anche al Senato. Leggi in un paese amato da per scontato il furto al supermercato, cerca anche di non disturbare l'onesto lavoro del contrabbandiere, e non mettere le cinture è un grave errore soltanto se il vigile ha voglia di scherzare. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. La legge in un paese da capire, con tante coste e con tanto mare, dove arrivano persino coi patini milioni e milioni di clandestini, dove i nostri operai sono poco pagati grazie al buon lavoro dei sindacati, dove il geniale impegno del governo è sviluppare il non lavoro nel mezzogiorno. Ne ha parlato la Camera e anche al Senato. In un paese un po' ribasso, dove le tasse sono un paradosso, dove chi paga tutto, proprio tutto, è visto con stupore e con sospetto, dove è implicita l'antica usanza di fare un buon accordo con la finanza. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. Paese poco serio dove non manca niente tranne il necessario, e la misura non ci sfiora affatto, e sui giornali si può scrivere di tutto, dove in occasione di drammi mondiali noi modesti a parte siamo i più solidari. Ne ha parlato la Camera e anche al Senato. La legge in un paese birichino in cui ultimamente si ride di meno, dove ci sono i giochi del gran capitale, che è una specie di mafia però più legale, che noi senza perdere neanche una guerra potremmo un giorno trovarci col culo per terra. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. In un paese irrazionale dove sei indorgato lo stato sociale, dove i diritti del pensionato e del malato non li sa né il funzionario né l'impiegato, figuriamoci l'interessato, dove le carceri sono così accoglienti che non c'è più posto per altri delinquenti, dove senza isteria e con grande fermezza ci si pone il problema della sicurezza. Ne ha parlato la Camera e anche al Senato. La legge in un paese la deriva fa sì che la giustizia sia un po' riflessiva e per fare valere le tue ragioni dovrai aspettare due o tre generazioni. E nei tribunali, in archivi segreti, c'è la storia d'Italia di tutti i partiti. E siccome nessuno è senza peccato, si può ricattare tutto lo Stato. Di questo alla Camera non hanno parlato e neanche al Senato. Lo Stato c'è, lo Stato non c'è. Lo Stato c'è, lo Stato non c'è. Lo Stato c'è, lo Stato non c'è. Lo Stato c'è, lo Stato non c'è. Applausi, applausi, applausi, ma certo, applausi, applausi a questo splendido pezzo. Applausi a Radio Plaza, applausi al primo maggio, applausi a Occhio all'ingranaggio, applausi al collettivo Utopia che promuove e propone queste esperienze sonore, queste esperienze di vita, queste esperienze di lotta che possiamo sintetizzare appunto anche nel brano di Giorgio Gaber che abbiamo ascoltato poc'anzi. Applausi a Giorgio Gaber. Applausi a Giorgio Gaber, applausi a questo brano La legge di Giorgio Gaber, dall'album Un'idiozia conquistata a fatica, che è un disco, si sentiva che era live, no? Un disco live. Non sono andato d'accordo a mettere la roba live per radio, però ci merita, voleva un po' di live perché ci merita, manca tanto il live. Mai, perché il primo maggio è ricchissimo di contenuti e di suggestioni, quindi non le elenchiamo tutte, andiamo così. Oggi siamo subliminale, Radio Plaza subliminale. Subliminal Radio e allora Plaza. Senza dire niente, il tema del prevalere di una mentalità individualistica ed egoistica nelle società contemporanee è stato declinato ormai in molteplici modi ed ambiti, e raccogliendo una grande varietà di possibili cause e spiegazioni. Si tratta di un processo evidente agli occhi di tutti, al di là del facile moralismo di basso livello a cui può essere ascritto ad una superficiale lettura. Non si tratta di stigmatizzare il presente, auspicando in maniera nostalgica un utopico ritorno ai bei tempi andati. No, non si tratta di questo. Si tratta, al contrario, di riconoscere come l'umanità sia passata attraverso un processo secolare che ha condotto all'attuale atomizzazione delle esistenze individuali, sempre più prive di un orizzonte intersoggettivo, di un insieme di valori comuni che fondi la ragione dello stare assieme in una comunità più o meno allargata. Nelle società moderne, ipertecnologiche avanzate, l'individuo è ormai del tutto svuotato della propria essenza d'uomo, equiparato ad un informe merce da scambiare, vendere e acquistare. Flusso filosofico che continua così. Anche l'arte non è estranea a questo fenomeno. Nel contesto della produzione dell'industria culturale non si discute della perdita di una totale autonomia che l'arte non ha realisticamente mai avuto, ma di una totale perdita del valore artistico completamente fagocitato dalla sua mercificazione. Per funzionare questo meccanismo necessita di una strategia in grado di camuffare la standardizzazione e lasciare al consumatore l'illusione di aver effettuato una scelta autonoma e individuale nella fruizione del prodotto. In altre parole, la strategia messa in atto è l'inganno. Il primo giorno che ho messo un piede alla EMI mi hanno guardato, sembravano tutti un po' scemi. Qualcuno diceva che ero forse il garzone del bar che aveva lasciato il caffè sulle scale. Qualcuno diceva che non ero normale. Qualcuno rideva, rideva. Il direttore, una strana espressione sul viso, fece una smorfia che oggi voglio chiamare sorriso, e mi introdusse nel suo studio di uomo arrivato, mi parlò di arcipelago Gulag e mi disse: io penso che oggi sia molto giusto assentire al dissenso, al dissenso. Autobiografia industriale, viva l'amore con l'industria culturale. Amore erotico è soddisfacente, ma in definitiva un po' troppo esauriente. L'arrangiatore, dopo avermi ascoltato un pochino, disse: non male, è simpatico quel valzerino, io ci vedrei sopra un primo e un secondo violino, e una viola che piange da sola, perché no, una pianola, qualche cosa che prenda e che stringa alla gola, alla gola. Il tecnico audio mi squadrò con un ghigno feroce, ma il peggio è stato quando ho fatto sentire la voce, così piena di ragni, di granchi, di rami e altre cose un po' strane. Una voce dal regno dei più o da festival del sottosuolo, una voce oltretutto che mi accompagnavo da solo. Autobiografia industriale, viva le tette dell'industria culturale, tette opulente e dissetante, ma in definitiva un po' troppo pesante. Io a quel tempo stavo ancora aspettando Godot, cioè aspettavo la morte per poter dire: rinascerò, fatto diverso, collegato d'amore alle masse, più cultura, più lotta di classe. Ma Godot non è mai arrivato, si fa le cose sue ed è meglio così, certo, per tutti e due. Come prodotto non sono riuscito un granché, vendono certo molto più Jägermeister di me, ma lo confesso, questo in fondo è un piacere da poco, e non prova che sono diverso, seriamente diverso. Come amaro il tuo calice vita, come amaro il tuo gioco. Autobiografia industriale, cioè come il latte dell'industria culturale. Un latte amaro, molto indigesto, ma soprattutto un po' troppo caro. La confezione con il marchio di verginità l'hanno affidata a un fotografo di qualità, che in verità al vedermi rimase perplesso con quella faccia da fesso. Potrei fotografarlo solamente in un cesso, magari un po' di velluto rosso. Il primo giorno che ho messo un piede alla EMI mi hanno guardato, sembravano tutti un po' scemi, ma oggi ho capito che di tutti il più scemo ero io, l'unico che si prendeva sul serio, era stata anche male. Un incrocio terribile, insomma, tra un coglione ed un criminale. Autobiografia industriale, come inserirsi nell'industria culturale, cioè come possono gli intellettuali dare una mano per mantenere sempre gli stessi rapporti sociali. Bentornati, questa è Radio Plaza, oggi è primo maggio. Questo è Occhio all'ingranaggio. Ennesima versione di Occhio all'ingranaggio che cambia sempre faccia e forma. No, in questo blocco sulla filosofia, questo blocco sulla filosofia non poteva che chiudersi con un grandissimo filosofo. Ospite. Un grandissimo, per me è filosofo, poi ha scritto canzoni, ha scritto poesie, ha insegnato a scuola, ma secondo il mio punto di vista il suo luogo ideale è appunto la filosofia. Era Claudio Lolli. Sì, dall'album Claudio Lolli. Disoccupate le strade dei sogni del 1977 abbiamo ascoltato Autobiografia industriale. Claudio Lolli troppo spesso e da troppo tempo dimenticato, ormai buttato nel dimenticatoio, mi dispiace questa cosa. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti, anche perché il primo maggio oggi veloce, velocissimo. Siamo già arrivati alla fine di questa puntata 2021 primo maggio Occhio all'ingranaggio. In tutte le edizioni di Occhio all'ingranaggio c'è sempre stato, oltre al percorso e alla riflessione, alla meditazione, alle esperienze, ai volti, alle voci, agli incontri che si sono potuti fare lì a Stazione Utopia, per chi è di Marigliano diciamo sa bene di cosa stiamo parlando, per chi non lo è vada a cercare su collettivoutopia.noblogs.org tutte le informazioni necessarie all'avventura Stazione Utopia e alle varie edizioni di Occhio all'ingranaggio, questa festa che celebra il primo maggio, festa dei lavoratori che appunto che tornerà in piazza, tornerà da qualche parte. Occhio all'ingranaggio non è fermo, Occhio all'ingranaggio c'è, Occhio all'ingranaggio ci sarà sempre e puntualmente ogni anno a Occhio all'ingranaggio c'è un suggerimento, una proposta, diciamo così, chiamiamola così. Oggi, come abbiamo deciso, abbiamo detto già dall'inizio della puntata, facciamo parlare i brani musicali, facciamo parlare i testi. Quindi in questo blocco dedicato alle proposte che possiamo estrapolare dall'esperienza primo maggio, andiamo a sentire il brano che legge la mitica Pam. La fuga di Pulcinella. Da Favole al telefono del 1962, Gianni Rodari. Pulcinella era la marionetta più irrequieta di tutto il vecchio teatrino. Aveva sempre da protestare, o perché all'ora della recita avrebbe preferito andare a spasso, o perché il burattinaio gli assegnava una parte buffa, mentre lui avrebbe preferito una parte drammatica. Un giorno o l'altro, egli confidava ad Arlecchino, taglio la corda. E così fece, ma non fu di giorno. Una notte egli riuscì ad impadronirsi di un paio di forbici dimenticate dal burattinaio. Tagliò uno dopo l'altro i fili che gli legavano la testa, le mani e i piedi e propose ad Arlecchino: vieni con me! Arlecchino non voleva saperne di separarsi da Colombina, ma Pulcinella non aveva intenzione di portarsi dietro anche quella smorfiosa che in teatro gli aveva giocato 100.000 tiri. Andrò da solo, decise. Si gettò coraggiosamente a terra e via, gambe in spalla. Ma che bellezza, pensava correndo, non sentirsi più tirare da tutte le parti da quei maledetti fili. Che bellezza mettere il piede proprio nel punto dove si vuole.